Quindi i numeri, anche oggi crescono i contagi e gli attualmente positivi salgono di un migliaio di unità, crescono anche i dimessi e guariti e ancora il numero di morti, 550 nella giornata di ieri. Continua anche ad allentarsi la pressione sulle terapie intensive, mentre il dibattito sulla riapertura si fa più intenso e purtroppo diventa anche tema di scontro politico, per esempio tra la Lombardia e il governo, invece di restare un tema di discussione prima tecnico e poi politico. La ripartenza, il quando e il come, è un pezzo fondamentale di una sfida tremenda, per stare alle parole del prossimo presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, designato ieri. Vogliamo riaprire in sicurezza, ha detto tra l'altro. Gli Stati Uniti hanno contato intanto 4.500 morti in 24 ore, quasi il doppio rispetto a ieri, ma Donald Trump parla di picco superato e presenta un piano in tre fasi per il ritorno alla normalità. I lettori e il mondo della cultura intanto piangono la morte ieri di Luis Sepúlveda, colpito e ucciso da Covid-19. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. E con il nostro inno a farci coraggio iniziamo anche questa puntata di 24 Mattino alle 6:29 minuti e 49 secondi di questo venerdì 17 aprile. Per chi è superstizioso, io non lo sono. E la iniziamo con Carmelo Lauricella in regia, Miriam Lucchetti in assistenza insieme a Giorgio De Luca e con voi naturalmente 349-238-6666 per i messaggi WhatsApp, soprattutto audio, per farmi sentire la vostra voce, come vanno le cose, cosa state facendo, come vi preparate a questo fine settimana che per molti, quelli che devono stare a casa, è assai simile alle giornate in mezzo alla settimana. Ripartire come, quando è il tema di discussione, di dibattito, lo avete sentito in queste ore. E come dicevo, purtroppo sta diventando un tema di scontro politico, ma santa pazienza, possiamo non farne un tema di scontro politico? Possiamo tramutarlo in una riflessione semplicemente, non dico tecnica, perché poi sarà anche la politica a decidere tutto questo, però affidare tutto alla scienza, al buon senso, all'organizzazione all'interno delle aziende, all'organizzazione delle città, dei mezzi pubblici. Ragioniamo su questo, per favore, su questo. Comunque, a scatenare tutto è la regione Lombardia, che poi si porta dietro tutte le altre, le regioni del nord, perché insomma ha detto il 4 maggio noi vorremmo iniziare a riprendere, a ragionare se riprendere. Dunque potremmo partire da questo Fontana, da questo Attilio Fontana, il presidente lombardo, che dice dal 4 maggio una ripresa graduale. Io mi auguro che veramente si possa ricominciare, quindi nei prossimi giorni, 4 di maggio, come è stato detto, data di fine, di termine dei precedenti provvedimenti, si possa ricominciare una ripresa graduale. Cerchiamo di capire, noi non abbiamo nessuna intenzione di ripartire come se nulla fosse successo, assolutamente. Quindi posizione un po' più morbida rispetto a quello che avevamo sentito all'inizio. A criticare la Lombardia innanzitutto il sindaco di Milano, Beppe Sala, il quale dice: ma come? Il governo ha appena dato il via libera all'apertura delle librerie e tu hai deciso con una tua ordinanza che le librerie non le riapri. E poi cosa fai? Mi parli di riapertura? Sala. Mi è stato detto, guarda che la situazione a Milano è molto preoccupante. Possiamo immaginare di dare un'ulteriore stretta? Siamo arrivati nel weekend scorso, il weekend di Pasqua, e voi vi ricordate gli sguardi terrei nella conferenza stampa di commento dei numeri e l'allarme su Milano? E poi, il governo chiede di riaprire le librerie, le altre regioni dicono di sì, la regione Lombardia dice di no. E infine, ieri, l'annuncio, riapriamo dal 4 di maggio. Cosa è successo ieri? Qua un ascoltatore mi scrive che quasi continua a fomentare la polemica con la regione Lombardia, che Sala è in campagna elettorale. Ma guardi, non lo so se sale in campagna elettorale, non so se anche Fontana ha un po' di terreno da recuperare, per così dire. Così come il governo non vuole essere superato nelle decisioni su appunto riapertura e ripartenza e sente del fiato sul collo su questo fronte e quindi replica un po' duro, no? Lo fa Francesco Boccia, per esempio, il ministro, sentiamolo. Ci dia i suoi contributi lì, è inutile ora fare un dibattito nel paese o sui mezzi di informazione dando poi informazioni che possono non essere in linea con i provvedimenti. Siccome c'è la necessità, io penso che questa responsabilità la sentiamo tutti, cioè di classificare il rischio di ogni lavoratore e ogni comparto ha una classificazione di rischio. Insomma, dice Boccia, Fontana dia il suo contributo in cabina di regia. Va bene, speriamo che tutto questo si plachi, e si possa, come dicevo, ragionare un po' più concretamente. Guardate, molte aziende lo stanno facendo. L'Associazione Industriale di Brescia ha firmato un accordo con i sindacati, ne abbiamo parlato ieri, esattamente su quali saranno le regole nel momento nel quale si ripartirà. Le aziende del trasporto pubblico locale stanno iniziando a organizzarsi, a riflettere su come gestire la prossima fase, che non sarà facile, perché mantenere distanze all'interno di un autobus o di un vagone della metropolitana, insomma, comporta delle scelte anche organizzative. Cioè, ci sono delle foto di oggi sul Messaggero dell'ATAC, nella quale il personale dell'ATAC è andato là con delle avete presente quelle strisce di delimitazione di plastica, quelle bianche e rosse che si tirano, no? Quei nastri bianchi e rossi che si tirano, le strisce di delimitazione di plastica, separando pezzi di autobus per far sì che le persone potessero stare distanziate. Insomma, anche su tutto questo bisogna riflettere, cioè c'è un lavoro enorme da fare, no? E insomma, si spera che su questo si rifletta. Riaprire e convivere come a Wuhan, dice il presidente della regione Veneto, Luca Zaia. Qua ancora una volta mi sono dimenticato ieri di scrivere allo staff di Zaia, quello che contattiamo di solito quando abbiamo ospite il presidente, per dirgli: ragazzi, dategli un microfono decente. Comunque, ecco Zaia. Guardate, oggi il vero tema è decidere se si vuole tenere chiuso tutto e morire nel tempo in attesa che il virus se ne vada, oppure puntare alla convivenza. Guardate che tutte le esperienze, Wuhan compreso, alla fine hanno deciso di convivere e di aprire, perché oltre un certo limite poi non diventa più sostenibile. Sempre fatto salvo l'indicazione del mondo scientifico. Oh. Risolviamola questa cosa dell'audio di Zaia. Presidente dell'Emilia Romagna, Bonaccini. Io mi auguro di sì, che qualcosa possa ripartire. Questo vorrebbe dire peraltro che la curva dei contagi non solo cresce lievemente come oggi, ma addirittura comincia a calare, raggiunto il picco. Io però non sono Telma e dobbiamo anche rispettare le indicazioni che verranno dal comitato scientifico, che poi la politica deve fare propria per cercare di dare una risposta. E dunque, questo è lo stato del dibattito. Al momento, come diceva poi qualcuno, si muove molto concretamente. Citato l'Associazione Industriale di Brescia, ma potrei citare per esempio anche la Ferrari e Fiat Chrysler, no? Che hanno stilato questo accordo con i sindacati per ripartire, con diciamo il placet di Roberto Burioni a metterci la firma. Insomma, si può fare in certe condizioni. Andiamo sul territorio però intanto a vedere come vanno le cose anche dal punto di vista medico e come ci si sta organizzando per gestire chi poi esce dall'ospedale. Noi siamo con Michele Bright, che è direttore generale dell'AST di Pavia. Buongiorno Bright, benvenuto, eccoci. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, innanzitutto ci dà un quadro della situazione da voi, come vanno le cose, la pressione, se mai è stata forte, si sta allentando? Sì, la nostra è una struttura con 7 ospedali sul territorio, 2 principali che sono Vigevano Voghera e un altro ancora a Stradella, e nel corso di questa drammatica esperienza noi abbiamo trattato circa 1600 casi all'interno della nostra organizzazione e abbiamo avuto anche noi lo tsunami che hanno avuto tutte le aziende ospedaliere di Regione Lombardia. Siamo arrivati ad avere, senza avere reparti di malattia infettiva, fino a 300 posti letto dedicati a malati Covid. Recentemente, fortunatamente, la pressione sui pronto soccorso si è leggermente ridotta e anche le terapie intensive, i posti di terapia intensiva cominciano a diminuire, diciamo, in termini di occupazione. Noi siamo passati da 13 a 28 e nelle situazioni più critiche abbiamo portato pazienti anche in sala operatoria attaccando le respiratori del sala operatoria. Oggi abbiamo 234 pazienti ricoverati e quello che cominciamo a attenzionare appunto è anche il dopo ricovero. Ecco, questo è un tema fondamentale, Bright, perché insomma i dimessi spesso sono dimessi ma poi restano contagiosi per un certo periodo di tempo, no? Come li monitorate? Allora, noi abbiamo attivato un servizio di telemonitoraggio appunto per pazienti che sono dimettibili, cioè le loro condizioni cliniche non necessitano più di un ricovero, possono essere dimessi a domicilio, ma non sono ancora negativizzati dal punto di vista, diciamo, della presenza del virus. E un servizio molto semplice lo abbiamo messo in pista grazie anche a una donazione di una ditta che si occupa di software, che è la ditta Zucchetti, una piattaforma dove il paziente ha due possibilità. Alla dimissione gli viene consegnato, se le condizioni sono ancora, diciamo, critiche o se è un paziente fragile, un kit che prevede un pulsiossimetro, cioè la possibilità di uno strumento che misura frequenza cardiaca e concentrazione di ossigeno nel sangue, e anche gli viene dato, se non ce l'ha, un termometro per tenere sotto controllo queste misurazioni di parametri clinici. Dopodiché lui ci dà la mail, il suo cellulare, gli mandiamo un link con questa mail per accedere alla piattaforma. La piattaforma basta semplicemente o un tablet o uno smartphone o un PC, quindi è semplicissima da attivare. Abbiamo persone anche anziane che sono in autocontrollo e praticamente lui inserisce la sintomatologia che ha. Quindi c'è un questionario molto semplice dove si schiacciano un pulsantino, a tosse, a mal di gola, a difficoltà respiratorie. E tutto questo finisce in un database che vi consente, da una parte, di tenerli sotto controllo e dall'altra, certo, di raccogliere dei dati che vi sono utili, no? Assolutamente, c'è dietro a questo una centrale medica. Noi abbiamo dei medici dedicati che turnano giornalmente dalle 9 alle 13, alle 14, alle 18, 7 giorni su 7. Il paziente deve inserire i suoi dati clinici 2 volte al giorno, alle 9 alle 14, e i medici verificano prima cosa che li abbia inseriti, se non ha compilato il questionario lo chiamano per vedere come mai, lo aiutano eventualmente se serve a fare qualche cosa, e soprattutto verificano che i parametri, sia quelli che ha inserito in termini di sintomatologia il paziente, sia quelli che lui inserisce a seguito della misurazione con il kit di telemedicina, siano dentro dei range di controllo, cioè non vadano sopra la soglia o inferiore, ad esempio ho una temperatura corporea a 35 gradi, 34 gradi, o superiore, o vado a temperatura sopra i 37,5 e quant'altro. Se questi parametri sono a posto, il medico non fa nessun tipo di, il questionario compilato, il medico non fa nessun tipo di chiamata. Nel caso in cui ci siano delle criticità, si può arrivare anche a una videochiamata, quindi telefonare direttamente e fare una specie di videovisita col paziente. Ah, ecco qua, dunque, questo è una, secondo me, una delle possibilità, no? Per diciamo così, per, più che per ripartire, no? In questo caso per seguire sul territorio i pazienti. Grazie a Michele Bright, direttore generale dell'AST di Pavia, per averci portato questo, questo racconto. Oh, altra questione sulla quale ci si sta dividendo, e qua devo dirvi la verità, io sto faticando a trovare un'opinione su questi test sierologici, una condivisione da parte degli scienziati, cioè non riesco ad avere chiarezza, non riesco ad avere chiarezza. E dunque in questa chiave la prudenza, cioè prima si è partiti dicendo che con i test sierologici si poteva verificare l'immunità del paziente a Covid-19 o il fatto che avesse degli anticorpi e quindi poter dare una sorta di patente di immunità, e che questi test sierologici sarebbero stati estremamente rapidi. E queste dichiarazioni sono arrivate anche da parti istituzionali. La Lombardia per esempio partirà lunedì prossimo sotto una forte pressione, bisogna dire il vero, perché su questo la regione è stata molto cauta. Dopodiché mi ritrovo dal luogo nel quale tutto questo è partito, il Veneto appunto, quest'idea, cioè è partita quest'idea, una delle persone che ha gestito l'emergenza in Veneto, il professor Crisanti, quello di Vo, che dice, ospite alla RAI, dice... non servono a questo, cioè i test sierologici sono sostanzialmente inutili. Non servono per nessuna delle due cose, non servono sicuramente per fare la diagnosi, e qui c'è da di dire che questa confusione nasce dal fatto che per altre malattie effettivamente i test sierologici possono essere molto utili per fare la diagnosi, perché ci sono anticorpi, una particolare classe di anticorpi che compare temporalmente molto vicino al momento in cui una persona entra in contatto con l'agente patogeno, che può essere un batterio o può essere anche un virus. Ecco. Purtroppo l'infezione da Covid-19 non si comporta in questo modo, e quindi questi anticorpi purtroppo non compaiono. E quindi non andrebbero usati. Quindi non è possibile stabilire nessuna relazione temporale tra la presenza di anticorpi e l'avvenuto contatto con l'agente patogeno. Quindi diciamo subito che per la diagnosi hanno un valore estremamente limitato e non dovrebbero essere utilizzati per la diagnosi. È in realtà ospite alla 7 su Coffee Break, ancora Crisanti, va. Per quanto riguarda la cosiddetta presenza di anticorpi che in qualche modo facciano presumere un livello, uno stato di immunità, anche qui non c'è nessuna prova che questi anticorpi siano protettivi. Non c'è nessuna prova che questi anticorpi protettivi, se esistono, durino nel tempo, e quindi io penso che fare delle deduzioni sul stato di protezione sulla base di un risultato su dei test che non sono stati validati sia alquanto rischioso e perlomeno irresponsabile. Capito? Fatto sta che però la Lombardia appunto parte adesso, il Veneto ci progettava tutta una strategia, il governo adesso ha deciso che si parte con i test sierologici. Ora, io non pretendo, come ha fatto l'altro giorno tra mille polemiche il ministro Boccia in un'intervista, che la scienza dia una risposta univoca, che parli con una voce sola, perché la scienza per definizione deve discutere, deve mettere in discussione le tesi, eccetera. Però su questo punto almeno cerchiamo di raggiungere, no, cerchiamo di fare un po' di chiarezza, per favore. Ci proveremo anche noi nei prossimi giorni. Traffico intanto. Ed eccoci di nuovo alle 6:48 minuti. Un ascoltatore mi scrive scrive su WhatsApp, però sta guardando la diretta Facebook, così vi ricordo anche siamo in diretta su Facebook, come sempre ci potete vedere. Dice: spettacolare la diretta con la signora con l'aspirapolvere dietro. Questa è l'occasione per ringraziare anche tutte le persone che sono quelle che continuano a lavorare, tra quelle che continuano a lavorare e che spesso non ricordiamo che lavorano nei servizi di pulizia, igienizzazione, in tutte le aziende che sono in piedi e che stanno tenendo in piedi il paese. Dai, forza! E che magari, come la signora che incontro qua tutte le mattine alle 5... sono qua a queste ore, esattamente. Ancora sui test sierologici, dice Rezza dell'Istituto Superiore di Sanità, non danno il patentino di immunità. Il test sierologico non dà un patentino di immunità. Ma allora che cioè, facciamo persona... a fare però, Rezza? Allora sono utili allora, o no per ripartire? Allora, io mi siedo, dobbiamo fare già uno sono studio di prevalenza. Dobbiamo fare uno studio di prevalenza per vedere qual è la diffusione dell'infezione nelle varie aree italiane, questo è chiaro. Quindi utile, per così dire, solo per avere un quadro epidemiologico, ossia capire quanto effettivamente è diffuso questo virus. All'estero... Insomma, degli altri paesi più o meno sapete, ne abbiamo parlato molto di Germania, abbiamo parlato molto di Francia, dove una parte delle scuole riapriranno a partire dall'11 maggio, quantomeno elementari e materne. L'Austria, quasi l'80% delle attività è pronto a riaprire. Non riapre, ma sicuramente ha gestito l'emergenza. Motivo ce l'hanno chiesto. Come sta andando in Grecia? Che dalla Grecia non sappiamo nulla. Come stanno andando le cose? Siamo in linea con Giorgio Cantas, è uno pneumologo, lavora ad Atene. Buongiorno Cantas, benvenuto e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, come stanno andando le cose? Le cose da noi stanno andando, diciamo, normalmente, come dovrebbe andare normalmente questa gestione di questo virus. Abbiamo cercato di evitare la grande massa, diciamo, i primissimi giorni del primo caso, abbiamo preso dei provvedimenti, diciamo, di poter bloccare la diffusione di questo virus, perché si è visto che ha una diffusione molto veloce e poi molto anche abbastanza pericolosa, insomma. Quindi le strutture non avrebbero tenuto, diciamo, sarebbero collassato, io ritengo, tutto il sistema sanitario, se non avessero fatto in fretta e avessero dato delle disposizioni tipo chiusura di tutto. Quindi il lockdown è iniziato praticamente subito, Cantas, all'apparire dei primi casi. Da subito, sì. È capitato che è arrivata una signora, una che era venuta a Milano a fare una visita a Milano, sì, con dei parenti. E al rientro le hanno fatto, diciamo, il test all'entrata all'aeroporto e hanno visto che era positiva. Era positiva e aveva anche dei sintomi. Sì. Quindi hanno isolato questo caso, hanno cercato subito tutti quelli che i suoi vicini, sia di viaggio, sia, diciamo, i familiari, insomma tutti, e quindi hanno subito, hanno dato le disposizioni di stare tutti dentro, di chiusura delle scuole, di chiusura di tutto in pratica, perché degli alimentari, farmacie e così via, ma tutto il resto ha chiuso tutto. Sì. Naturalmente c'è da dire anche una cosa, sì, che la Grecia non è l'Italia. L'Italia è ai 7G, quindi, diciamo, voglio dire, paese industriale, soprattutto al nord, Milano, Bergamo, Sì. È stato molto molto diffusa, purtroppo per l'Italia. Sì. Lei dice è stato più facile, per così dire, chiudere la Grecia, cioè mandare in lockdown la Grecia rispetto al farlo in Italia, dice. Sì. Senti una cosa, Cantas, io ho letto qualche giorno fa un pezzo interessante, se non sbaglio, sul sito di Al Jazeera, nel quale c'era un racconto un po' lungo, no, su come la Grecia sta cercando di affrontare la cosa. Mi sembra di capire che ci sia anche il tentativo un po' del paese di quale chiedo una riflessione non proprio da pneumologo, più da cittadino greco, del paese di dimostrare la sua affidabilità in questa fase e quindi gestire l'emergenza anche in questo anche in questa chiave. È vero, l'abbiamo dimostrato, diciamo, in fretta, voglio dire, perché chiudendo, diciamo, le frontiere, si può dire, e chiudendo, diciamo, tutta la gente in casa, hanno avuto, non avendo un tsunami una marea di casi, diciamo, da gestire, hanno avuto il tempo delle strutture di aiutarle, di organizzarsi e quindi di assumere personale, ad esempio, di gestire abbastanza bene tutto questo. A questo secondo me ha influito moltissimo, perché la gente chiuderla tutta dentro senza, diciamo, uscire per niente non è stato facile. Certo. Però da quant'è che va avanti il lockdown? Dal 10 di marzo. Dal 10 di marzo va avanti il lockdown della Grecia. Eccolo qua. E quindi, tra l'altro, naturalmente si seguiva in tutto il mondo attraverso le immagini, diciamo, cosa succedeva nel mondo con questo Covid-19. Vedendo i camion da Milano, da Bergamo, sì, militari da Bergamo, trasportare purtroppo quelli che sono andati, è stato uno shock. Certo. Ha fatto capire che, insomma, cosa potrebbe essere qua in Grecia, dove naturalmente dopo la crisi economica gli ospedali non erano per nulla pronti per una cosa del genere. Però si sono organizzati velocemente, con persone che hanno lavorato e con molti contatti con l'estero, anche con l'Italia sicuramente. Certo. Per poter, diciamo, gestire la cosa. Quindi, per così dire, la lezione italiana è servita. Allora, io la ringrazio. Grazie a Giorgio Cantas, pneumologo ad Atene, per averci aiutato a tracciare questo quadro. Io ho un ultimo paio di voci da farvi sentire. Ursula von der Leyen, l'Europa deve chiedere scusa all'Italia, ieri durante un dibattito parlamentare al Parlamento europeo. Yes, it is true that no one was really ready for this. It is also true that too many were not there on time when Italy needed a helping hand at the very beginning. And yes, for that, it is right that Europe as a whole offers a heartfelt apology. Ed eccola qua Ursula von der Leyen che chiede scusa, che dice dobbiamo chiedere scusa all'Italia per come siamo stati un po', per così dire, disattenti. Ovviamente è ancora aperto il dibattito sul MES, sul meccanismo europeo di stabilità, insomma sull'accesso al fondo salva stati. Patuanelli, il dei 5 Stelle, il ministro delle attività produttive. Il no al MES è definitivo e non sono certo che l'Italia non dovrà mai attivarlo. Dopodiché, siccome non sappiamo quello che uscirà dal Consiglio europeo, che si terrà fra qualche giorno, aspettiamo quel momento prima di fare i commenti su quello che è uscito, perché altrimenti stiamo parlando di ipotesi e di ipotesi possiamo fare milioni. E quindi è il Consiglio europeo che bisogna aspettare per capire cosa esce dalla... Franceschini, il ministro dei beni culturali, PD. Ieri abbiamo deciso di spostare questa discussione a dopo il Consiglio europeo, che sarà la settimana del 23. È evidente che se fosse un MES senza condizioni non è più il MES di cui si è parlato in queste in questi mesi, in queste settimane. Sarebbe uno strumento diverso di sostegno per gli interventi sanitari e quindi ovviamente sarebbe da utilizzare, ma abbiamo detto vedremo come uscirà, come giusto e corretto che sia, anziché discutere preventivamente vedremo esattamente come sarà questo strumento e se sarà effettivamente senza condizioni. Vedremo. Allora, ci fermiamo con GR24 e prima di tutto il nostro inno. Ed ecco qua, ancora Bob Marley a farci coraggio, una pausa, GR24, ci ritroviamo subito dopo, come sempre anche in diretta Facebook, anche col 349-238-6666 per mandare i vostri messaggi vocali e per farci sentire la vostra voce su WhatsApp. Con Paolo Mieli ci sentiamo tra poco con la rassegna stampa.